Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie davvero per essere in nostra compagnia. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Anche oggi in regia abbiamo con noi Paolo Corleoni e Laura Vanossi è una garanzia sempre in redazione, quindi siamo assolutamente tranquilli. Andiamo. Fedele e appagato o in cerca di nuove avventure per nuovi traguardi? Parliamo di attività sportiva. L'atmosfera di Natale è profumata. Bene, questa, volendo un po' una puntata di bilancio, credo che dopo un anno di attività sportiva sia corretto chiedersi che cosa ci ha dato e che cosa ci ha tolto, se siamo soddisfatti, delusi o ci è venuta la voglia di cambiare per raggiungere risultati migliori, per divertirci di più o solo per il piacere, perché no, di provare qualcosa di nuovo. Quindi in una puntata in cui ci metteremo un po' a nudo, ci racconteremo reciprocamente i nostri successi, le nostre defiance. Il nostro numero verde è già pronto per ricevere le vostre telefonate, 824 0024, i messaggi 349 238 6666, quindi abbiamo tutte le coordinate in studio. Naturalmente, come ogni venerdì, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Ma oggi non è solo. Esatto. Oggi in studio è tornato a trovarci il dottor Andrea Colombo, psicologo dello sport, ex atleta olimpico. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dottor Confalonieri, io direi di iniziare un po' a dividere i nostri amici in gruppi. Allora, perché penso ci potrebbe essere chi tra loro è soddisfatto perché ha raggiunto in pieno i suoi obiettivi e quindi si dà un bel 10. E sì, noi siamo contenti. Sì, diciamo, chi è rimasto fedele innanzitutto ci ha proseguito con l'attività che già faceva, indipendentemente dal livello a cui la faceva, e ha raggiunto gli obiettivi che si era posto per quest'anno, sia che fossero obiettivi agonistici, sia che fossero semplici obiettivi di benessere. Quindi ha detto, la fedeltà ha pagato, sono contento, continuerò con questa attività, e ci dovrebbe raccontare perché. Quindi quali erano i suoi obiettivi, perché è rimasto contento e tutto sommato perché questa scelta ha pagato. E questa credo sia un po' la categoria più numerosa fra i nostri ascoltatori. Poi vediamo se le loro telefonate la smentiscono. Mi piacerebbe anche essere smentito. Dottor Colombo, secondo lei sono le persone che praticano sport. Tante volte col dottor Confalonieri abbiamo paragonato il piacere di fare sport, la relazione con lo sport, un po' come una relazione amorosa. Anche nei confronti dell'attività sportiva ci sono degli alti e dei bassi, immagino. Certo, in generale credo che chi è appagato dell'attività sportiva dell'anno debba un po' concedersi di festeggiare, esattamente come l'atleta che è soddisfatto dei suoi traguardi, è contento del risultato che ha raggiunto, o perché ha vinto una medaglia o perché semplicemente ha fatto il suo personale. Per lui è venuto il momento di festeggiare, quindi secondo me l'atmosfera natalizia per loro è davvero profumata, è anche il momento di concedersi qualche lusso in più, cioè di godere un po' di un bel traguardo che uno ha raggiunto. Dottor Confalonieri. Questa osservazione è bellissima, nel senso che proprio quello che manca spesso, soprattutto a chi è più fanatico dello sport, è la voglia di fermarsi un attimo, fare un bilancio, godere di quello che ha fatto, riposarsi, resettare l'organismo e ricominciare più in forma e con ancora maggiore desiderio. Quindi mi sembra davvero un suggerimento da fare mio e da sottolineare con forza, perché lo trovo importantissimo. E anche uno spunto da condividere con i nostri ascoltatori: se siete soddisfatti, vi date un bel 10, perché io vi inviterei proprio a dare un voto, no? Alla vostra. Anche se vi date 8 o 9 può bastare. Va bene, anche 4, no, possiamo. Ci mettiamo un attimo, ecco, in discussione. Però soprattutto se entrate nell'ordine di idee o volete farlo, di come dice il dottor Colombo, di festeggiare. Andiamo invece a un altro gruppo. Chi è rimasto deluso? Il classico dottore, ho fatto e non ho visto nulla o poco. In questo caso, dottor Confalonieri? In questo caso vorremmo capire, io individuo tre possibili cause. La prima, ci siamo posti obiettivi troppo elevati e quindi non li abbiamo raggiunti proprio perché non eravamo in grado di raggiungerli. La seconda, abbiamo sbagliato modo di allenarci, quindi o abbiamo sbagliato allenatore, o abbiamo sbagliato palestra, o abbiamo sbagliato programma d'allenamento, può succedere, non era il più adatto a noi, oppure, questa è la circostanza più sfortunata, abbiamo avuto qualche problema di salute per cui non siamo riusciti ad allenarci perché ci siamo fatti male e via dicendo. Dottor Colombo. Beh, il consiglio che si potrebbe dare a queste persone è proprio quello di recuperare una dimensione un po' più ludica, un po' più riappropriarsi un po' più del corpo, delle sensazioni positive che porta all'attività fisica. Quindi una dimensione più legata al benessere, più legata al piacere dell'attività, in un giusto rapporto, cioè un giusto equilibrio tra quella che è la performance, gli obiettivi che uno si pone, e però anche l'altro aspetto importante, cioè il piacere di fare attività fisica, di muoversi per il gusto di muoversi. C'è chi invece quest'anno ha conosciuto il grande amore, una nuova attività è entrata nella sua vita, l'ha stregato e per fortuna succede, dottor Confalonieri. Sì, e questa è stata probabilmente un'esperienza molto bella, anche perché quando si comincia, se non ci sono problemi, soprattutto di salute, di solito siamo molto gratificati, perché all'inizio c'è la scoperta del nuovo e ci sono miglioramenti molto molto rapidi. Poi più si va avanti, più è difficile migliorare, più è difficile trovare gli stimoli. Quindi questi probabilmente fra i nostri ascoltatori saranno i più entusiasti. E allora vorrei chiedere, perché avete cambiato? Perché siete rimasti contenti del cambiamento? Magari la vostra esperienza può essere utile anche per qualcuno che non sa ancora il prossimo anno che scelte fare. Dottor Colombo, ma come si fa a evitare che questo sia un po' un fuoco di paglia? Beh, io credo che è una domanda senz'altro difficile da questo punto di vista. Perché quando ci si innamora, in qualche modo non si vede nulla davanti agli occhi, no? Quindi in un certo senso è una cosa normale. Le mamme a noi ragazze dicono che sia un bravo ragazzo, non so che cosa dica voi, la vostra mamma, ma per l'attività sportiva forse questi consigli non valgono. Beh, il bravo ragazzo nell'attività fisica è un'attività fisica che ci faccia star bene, è un'attività fisica che ci provochi benessere, ci faccia stare bene con noi stessi e che ovviamente non sia qualcosa di estremo, qualcosa che va oltre il benessere. Dottor Confalonieri, lei non sa se è sentito mi è piaciuto questo paragone, no, perché mia madre invece diceva, ma come nasce questo nuovo amore, quindi da che famiglia viene, quali sono le origini, da che ambiente puzzona. Viene? Allora, qui potremmo tradurlo rispetto allo sport, questa nuova passione in che contesto viene fatta? Cioè ti sei affidato a un centro sportivo importante, serio, un allenatore capace, accompagni da allenamento esperti, quindi nasce bene questa nuova passione o nasce con così, qualche così. Rischio da un ambiente a rischio? Ecco, giusto certo. Per continuare su queste similitudini. Invece proprio c'è chi quest'anno ha deciso di cambiare pagina, perché il tran tran gli stava stretto, insomma aveva voglia di novità. Dottor Confalonieri, succede? Magari uno prova qualche cosa di uno sport, accompagna un amico e... Cioè durante l'anno ha cambiato perché le cose non funzionavano. Certo. Sicuramente. Questo più delle volte succede perché abbiamo qualche problemino fisico, come dicevo prima. Questa è un po' la cosa più frequente. Oppure perché ci sono quelle personalità, e qui potrebbe aiutarci il dottor Colombo, che davvero quasi compulsivamente cambiano e non sono mai soddisfatte. Un po' come faccio con la televisione, no? Che non, ogni 3 minuti devo cambiare canale. Qualcuno lo fa con lo sport, magari ogni 3 o 4 settimane. Esatto. Dottor Colombo. Beh, diciamo che... un po' è normale, nel senso, secondo me c'è un desiderio anche di uscire da quello che è la routine quotidiana, appassionandosi a qualche cosa, cioè di investire, di impiegare le nostre passioni, no? il nostro lato passionale verso qualcosa. Quindi questo, fin tanto che non è qualcosa di patologico, di compulsivo, di ossessivo, è una normale spinta che mi sentirei assolutamente di favorire, in un certo senso. L'abbiamo poi, lei l'ha già anticipata, dottor Confalonieri, perché lei è medico e pensa anche subito a quelli che durante l'attività sportiva si fanno male. C'è chi ha dovuto dare un taglio proprio perché la relazione diventava dolorosa. E spesso però questa diventa l'opportunità per provare qualcosa di nuovo di cui ci si innamora. Cioè non sempre il doversi fermare per un incidente è soltanto negativo. Io penso ai tanti che per esempio hanno scoperto la bicicletta o il nuoto perché hanno dovuto interrompere o il calcetto o la corsa per un problema, e quindi in fase di rieducazione, in fase di riabilitazione o la parte finale del recupero si sono dedicati a una nuova attività, se ne sono innamorati e hanno continuato magari abbinando le due o addirittura abbandonando quello che pensavano fosse l'amore di tutta la vita per sperimentare un'altra cosa. Quindi in questo caso possiamo proprio dire che il problema può diventare un'opportunità, la insomma, crisi diventa una risorsa. Banalmente non tutti i guai vengono per nuocere, sì, dottor sì. Colombo. Sì, è proprio come l'atleta ottimista, l'atleta in un certo senso vincente da un punto di vista mentale, riesce a trasformare una crisi, un momento difficile, in un'opportunità. Quindi queste sono le persone che da questo punto di vista impiegano le loro risorse, si sanno adattare al meglio a quella che è la situazione, caratteristica assolutamente vincente da un punto di vista sportivo, ma vincente anche da un punto di vista della nostra vita. Allora, 824 0024 se volete parlarne con noi, ma noi vogliamo salutare Fabrizio Fontana che è in linea. Ciao Fabrizio. Ciao. Se chi c'è lì vicino a te? Sto facendo ginnastica. 1001, 1002, 1003, 1004. Eccomi. Fabrizio. Riprendiamo un po' il fiato. Sai sì. cosa? Mi chiedevo, uno come te, che sei davvero un personaggio camaleontico, perché riesci a portare sul palcoscenico personaggi tra loro diversissimi, che devo dire a noi piacciono in modo particolare, da James Stunt a Gianmaria Fontana a Pelo. Ecco, io volevo proprio averti proprio in una puntata in cui parlavamo di Pelo, non ci siamo riusciti, ma adesso ti cucino io. Allora mi chiedevo che cosa il tuo rapporto con l'attività sportiva, sei camaleontico o sei fedele? Ma innanzitutto l'attività sportiva è determinante perché per uno come me che è molto cerebrale nella creazione, il fatto di abbinare la mente al corpo è determinante, è veramente uno scarico fisico da accompagnare a quello mentale. Per cui quando posso, io amo il calcio, quindi da calcio, calcetto, subbuteo, PlayStation, anche se alleno i pollici, però tutto ciò che è inerente al calcio è quello che mi dà soddisfazione fisica. Senti, quindi tu, dovendo dare un voto al tuo rapporto con, abbiamo visto, calcio e calcetto e dintorni, soddisfatto, 10, sì. 9. No, 10 e mezzo. 10 e mezzo, dottor Confalonieri, ma non è che fa troppo calcio questo Fabrizio? Però il calcio, al di là del fatto che è molto divertente, è anche uno sport che tutto sommato è completo in termini di stimoli, cioè ci consente di lavorare sulla reattività, sulla coordinazione, sulla velocità, e essendo uno sport comunque con sforzi relativamente intervallati, anche sulla resistenza. Quindi direi che è sicuramente uno sport divertente, l'aspetto ludico, quindi del benessere psicologico, è fondamentale, ma anche sul piano fisico è uno sport che allena in modo efficace. Senti Fabrizio, ma ad esempio James Stunt che sport farebbe? Ma secondo me James Stunt li ha provati tutti e non è riuscito a combinare niente, però alla fine, avendoli provati tutti, quindi chiaramente lui avrà fatto deltaplano, free climbing, freccette, tutti assieme. Anche una maratona secondo me l'ha fatta. Alla fine avrà sicuramente avuto il suo beneficio, anche perché lui, ovvero io, sul palco e quando faccio le prove, è molto fisico, mentre altri comici lavorano di più sul monologo, quindi sì. su uno stand-up. E la caratteristica unica di James Stunt è quello di vivere delle avventure, per cui salta, sfonda le porte, pesta la cacca, fa delle cose comunque vissute, c'è una narrazione, e lui comunque si troverà nella giungla, nello spazio, nel medioevo, e quindi deve affrontare fisicamente tutto ciò che gli si propone. Dottor Colombo, un bel personaggino, no? Io lo ricordo, è proprio, mi è venuto in mente una maratona, perché in effetti James Stunt è sempre di corsa, no? È sempre esatto. tra un'attività e l'altra. Ma mi piace invece quello che ha sottolineato Fabrizio, cioè questa, questa doppia dimensione del benessere, cioè da una parte l'aspetto mentale di creazione, in questo caso nel suo lavoro, ma dall'altra parte anche questo aspetto corporeo, no? Come riappropriarsi di certe sensazioni che provengono proprio dal corpo, e il benessere sta proprio nel giusto equilibrio tra queste due dimensioni. Però Fabrizio, tu tra l'altro, adesso noi parliamo di attività sportiva, ma tu puoi vantare un disco d'oro. Ole! Ole, colpo di scena! A sorpresa! Caro papà Natale 2! Esatto, perché io tra i muscoli che alleno c'è anche l'ugola, che comunque non è un muscolo, ma per tonto sì. Quindi allenando anche l'ugola c'è questo aspetto duplice, come dice il mio collega Confalonieri, evidenzia sia l'aspetto ludico-psicologico che quello fisico. In questo caso quello fisico è relativo ai muscoli della gola e all'esercizio dell'ugola. L'aspetto psicologico è che, che abbiamo realizzato comici uniti un disco Caro Papà Natale 2 quest'anno che è a favore di tutti i bambini ricoverati nei reparti in lungo degenza delle principali strutture ospedaliere italiane, e già siamo al disco d'oro. Siamo al disco d'oro, scusami, siamo con voi. Grazie, certo. Fabrizio, figurati, per essere stato con noi. Buona giornata. Salutami anche Pelo e Gianmaria Fontana. Che... Sì, saluto tutte e due. Salutameli tutte e due. E fai complimenti. Sono mastoideo. Le so tutte. E vai, Fontana. Un bacio, grazie. Ciao. Enzo ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno, Enzo. Buongiorno a voi. Mi riferisco al discorso iniziale del bilancio dell'anno. Sì. Io con molto divertimento e anche soddisfazione da qualche anno, per passare le serate costringendomi a uscire, ho ricominciato a giocare a bowling. Mm. E la cosa è molto gradevole, perché si è sempre in compagnia, con la disponibilità di tempo e anche di possibilità finanziarie, si possono fare attività continuamente tra tornei di centro, regionali, attività federale a livello nazionale, e in questi giorni abbiamo fatto diversi tornei natalizi nei vari centri, ci si trova, c'è anche la pianificazione dell'anno prossimo, con molta soddisfazione di tutti, vedo. Enzo, e lei è abbastanza bravino? Se la cava bene? Beh sì, qualche finale italiana ogni anno l'ha fatto. Vedi? Il circuito seniores europeo, insomma, mi diverto compatibilmente con gli impegni di lavoro. Dottor Confalonieri, una buona idea, noi non abbiamo mai parlato di bullying. No, è uno degli sport, non sono tanti credo, però è uno degli sport che ci mancava, è interessante sicuramente dal punto di vista delle capacità coordinative, delle capacità attentive, della concentrazione, dell'equilibrio importante. È uno sport monolaterale, quindi forse se si fa in modo continuativo un minimo di ginnastica di riequilibrio potrebbe essere utile, e poi c'è questa componente dell'uscire la sera che ha sottolineato, del ritrovarsi, che credo che sia fondamentale, no? Quindi oltre al calcetto anche il bowling, dottor Colombo, è questo che volete, no? Dire, prepararci, eh? Sì, l'aspetto sociale, cioè l'aspetto comunque di relazione è sempre preponderante in qualsiasi sport, anche nello sport assoluto c'è sempre questa dimensione di amicizia, di relazione con gli altri, che è una delle motivazioni al fare sport, all'uscire la sera, come ci dice il nostro ascoltatore. Più maschile che femminile, secondo lei, dottor Confalonieri? Ma più maschile per tradizione culturale, cioè è uno degli aspetti nei quali le donne non si sono ancora completamente emancipate. Purtroppo arriverà il momento in cui anche loro usciranno. Oppure, per fare sport insieme. Siamo state così. E ci alterneremo nelle serate anche rispetto alla pratica sportiva. Siamo pronti anche a questo. Oppure siamo state così brave a farvi credere che a portarvi fuori, e in modo che noi potevamo goderci una sera senza di voi. Magari c'è tutto un progetto dietro, chissà. 800 24 00 24, Giovanni da Reggio Emilia, lo saluto e l'accompagno con me ai mercati. Giovanni? Sì. Mi fa da cavaliere, mercati e meteo, poi torniamo io e lei insieme? Va bene. Grazie, va bene. Giovanni. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati e in linea con noi Giovanni da Reggio Emilia. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, io telefono perché il mio bilancio sportivo di quest'anno è piuttosto deludente. Volevo chiedere ai suoi ospiti come superare questo momento psicologicamente, mi butta un po' a terra, le spiego. Sì. Io dovevo finalizzato tutta la mia annata sportiva in funzione della maratona di New York. Purtroppo 3 mesi prima, e ancora adesso sono ancora, anche in questo momento sto andando a fare l'ennesima visita, ho avuto un infortunio a un ginocchio, un'infiammazione al tendine rotuleo, al quale ancora non sono riuscito a venirne fuori. E sto vivendo molto male, insomma, questo momento di delusione psicologica sportiva. Volevo chiedere come eventualmente superare, cosa può aiutare per rimettersi un po' in pista, diciamo così. Professor Colombo, perché lei insegna anche all'università e io ero rimasta indietro. Dunque, da un punto di vista psicologico, per superare una piccola delusione, la cosa migliore è proprio quella di darsi dei nuovi obiettivi, magari con degli standard un po' meno elevati, quindi ripartire magari sì, ancora con la corsa o magari anche con altre attività. Quindi è chiaro che questa è un po' un'elaborazione di un piccolo lutto, no? Quindi di una piccola sconfitta che in qualche modo uno deve imparare a gestire. E l'attività sportiva è comunque costellata di infortuni, per cui la capacità dello sportivo, insomma dell'atleta, è proprio quella di perseverare nonostante le difficoltà, tirare fuori quella grit, quella grinta, quella capacità comunque di raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà. Professor Colombo, lei che ha partecipato anche alle Olimpiadi, nella sua carriera di atleta ha avuto qualche intoppo? Sì, credo gran parte degli atleti, insomma, ci sono stati dei momenti difficili. Alle Olimpiadi ho comunque gareggiato con un forte dolore al tendine di Achille, quindi comunque anche in un appuntamento importante è chiaro che La cosa importante lì è cercare di riuscire a avere bene in testa che uno fa il meglio che può e quindi questo ti aiuta ad impiegare al meglio le tue risorse. Nello sport non vince chi fa tutto perfetto, ma vince sempre chi sbaglia meno. Allora vediamo se sono d'accordo con lei, professore. Due grandissimi atleti che abbiamo in linea: Massimiliano Rosolino. Ciao Massimiliano, bentornato. Ciao ragazzi, e questo già, guarda, già ci fai gli auguri di Natale. E Antonio Rossi. Antonio, bentornato. Beh, ciao, grazie, tanti auguri anche da parte mia. Ciao Antonio. Ciao Max. Allora, voi che avete, no, il bilancio è super positivo, io volevo chiedere a Massimiliano se puoi dare anche tu una mano ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo dicendo beh, ho fatto e ho dovuto smettere oppure non sono soddisfatto, insomma, magari un consiglio dato da un grande atleta funziona meglio. È ovvio, sai, poi a volte è facile fare le prediche quando uno è bravo e continua ad essere bravo, invece nel mio entourage da sportivo d'alto livello, ovvio che ho raggiunto e coronato dei sogni, e poi qualche volta le batoste sono servite per poi ripartire e rincorrere un altro sogno, che poi magari può essere più grande, più piccolo, ma l'importante è cercare di realizzarlo, perché già quello è una cosa che ti dà una carica tutti i giorni. Antonio. Ma guarda, nella mia carriera sono state più le sconfitte che le vittorie, quindi ma non direi sconfitte, sono più che altre esperienze che ti aiutano a maturare. Per quanto riguarda, io pensavo un po' anche a quando ho avuto un infortunio, sono caduto dalla bicicletta un anno prima, a pochi mesi dalla qualificazione olimpica nel 2004. Devo dire che in poco tempo mi sono rimesso, ma veramente ma senza troppo neanche accelerare i tempi. È che la voglia di andare ai mondiali per qualificarmi per le Olimpiadi mi ha fatto superare ogni difficoltà, e quindi io credo veramente che poi alla fine la differenza nel vincere o meno una medaglia sta proprio nella testa e nella volontà di vincerla. Dottor Confalonieri. Sì, ho una domanda un po' particolare in linea con la puntata di oggi. Il professor Colombo sottolineava l'importanza per l'atleta, così come per l'amatore, del rapporto con il proprio corpo. Per voi il rapporto col corpo è stato fondamentale nell'alto livello, però l'avete sperimentato, lo sperimentate anche in situazioni diverse. Penso al ballo, alla danza per Massi, e penso ai tanti sport come la bicicletta che ha praticato Antonio, volevo sapere com'è, come vedete il vostro corpo quando è impegnato al massimo livello nello sport che vi ha reso famosi, e come lo ritrovate quando fate qualcosa in cui magari siete un po' meno competitivi. Cambia? È un'esperienza gratificante, divertente? Vi sentite diversi o siete sempre voi? Massimiliano. Io, ma mi verrebbe da dire una chiavica, mi sento, perché quando fai una cosa dove non sei bravo ti senti impacciato, buffo e ti vergogni un pochettino, però è anche bello provare a fare una cosa che non conosci assolutamente. Io ho fatto questa, si parlava del ballo, ovviamente è stata una cosa divertente, che veramente non sapevo neanche incrociare dei piedi e si è visto, probabilmente tutti si saranno dicendo e si è visto. No, però non è vero, guarda, perché chi dice si è visto vuol dire che non ha mai provato, perché è difficile, sì, però, ballare. In 3-4 mesi comunque le mie piccole soddisfazioni quotidiane me le sono levate. Ho imparato a fare 12 coreografie da 90 secondi per tutti i balli latinoamericani e caraibici, e bene o male mi sono divertito. Sentire la carica della musica, proprio imparare a fare un'altra cosa, va bene, quello è il gioco, il segreto poi che ti trasporta con entusiasmo. Nel calcio invece lasciamo stare, ho fatto delle partite del cuore e sono stato male per tipo 10 giorni senza neanche toccare il pallone. Che Antonio Rossi lo sa, perché qualche volta ci siamo incrociati. Antonio, però, è negato. Avevamo giocato assieme a Verona. Senti Antonio, è vero, è così negato Massimiliano con il pallone? Sì, calcio, ma diciamo che correvamo tutte e due sulle facce senza prendere il pallone, giocavano in centro. Senti Antonio, Massimiliano dice il ballo è stato difficile, però mi ha dato soddisfazione, ho provato qualche cosa di nuovo. E per te? Ma io guarda, la canoa è uno sport aerobico, quindi soprattutto durante l'inverno lontano dalle gare faccio altri sport, ma proprio con l'intenzione di allenarmi e fare avere una buona alternativa alla canoa. Quindi la corsa, la bicicletta, il nuoto, lo sci di fondo, insomma tutti i sport che mi piacciono, che mi piace fare, e oltretutto mi aiutano ad allenarmi. Ovviamente quando vado in bici, non so, qua sul lago, qui a Lecco, e incontro persone e appena mi riconoscono pensano che, avendo vinto l'Olimpiadi in canoa, devo essere per forza un campione del mondo anche in bicicletta, insomma, e non è assolutamente così, e loro vogliono per forza battermi. Quindi anche quando vado in bicicletta e vado a nuotare, anche lì pensano chi mi ha in corsia assieme che sono campione del mondo, quindi devo andare forte anche là. Assolutamente non è così. Mi piace fare sport. Ovviamente la cosa bella è di quando sei allenato bene e vai bene, insomma, senti che sei in forma, è il rapporto che hai col tuo corpo, e lo noti subito quando non sei in forma, quando hai magari qualche chilo di troppo. Professor Colombo vuole ha una domanda. Il dottor Confalonieri si è giocato una domanda, devo dire, magnifica. Lei ne ha una per questi grandi uomini? Ma al di là di fare i complimenti per i grandi risultati, mi piace molto quello che ha appena detto Antonio, cioè l'idea proprio di recuperare una dimensione con il corpo positiva. Molto spesso l'atleta, soprattutto quando è un atleta di alto livello, ha un rapporto con il proprio corpo un po' per sfruttarlo, no? Cioè il corpo è un modo per raggiungere il risultato, quindi lo iperalena, lo sfrutta in qualche modo. E è bella questa cosa, cioè riappropriarsi del proprio corpo, di una dimensione corporea, di un buon rapporto con il proprio corpo che non sia soltanto finalizzato alla performance. È ciò che aiuta l'atleta anche a stare meglio, a superare dei momenti di difficoltà. Molto spesso gli atleti di alto livello si vedono soltanto in funzione della performance, no? Invece sono... Antonio e Massimiliano ci hanno dato una lettura assolutamente vincente, la capacità di uscire, di fare anche altro, di mettersi in gioco anche su altro, con questo spirito di apprendimento. Grazie Massimiliano Rosolino ed Antonio Rossi, buon Natale anche a voi. Ciao, ci sentiamo presto. No, grazie mille, ciao, buon Natale, ciao. A tutti. Grazie. Ciao. E andiamo a Tony, che ci chiama da Napoli. Tony, buongiorno. Buongiorno, auguri a tutti e complimenti, perché la vostra trasmissione è veramente molto interessante e dà sempre consigli molto utili. Grazie Tony. Allora, il mio problema è questo, veramente, è di mia figlia. Ho una bambina, vabbè, la chiamo ancora bambina, ha 13 anni, non è sviluppata ancora, però ha una lieve scoliosi. Sì. Adesso attualmente fa nuoto anche per tenere un po' tonici i muscoli, però la sua passione fino a un anno fa era la ginnastica ritmica, che sì, diciamo hanno un po' sconsigliato tutti quanti. Adesso il nuoto diciamo che non le va proprio, e quindi vorrebbe cambiare, non sa cosa, diciamo, che pesci prendere, tra virgolette. Forse l'atletica leggera, oppure non saprebbe. Insomma, Tony, chiediamo un consiglio al dottor Confalonieri. Dottore, il nuoto, perché... Sì, diciamo che da un punto di vista medico c'è da sempre questa indicazione del nuoto perché ha la scoliosi, anche se poi gli effetti sono abbastanza relativi. Direi che ormai siamo sui 13-14 anni, quindi se il desiderio è diverso è il momento giusto per cambiare, per fare qualcosa di diverso senza preoccuparsi più di tanto della scoliosi, magari adottando come strategia quella di fare un po' di ginnastica a corpo libero, di ginnastica di riequilibrio o posturale, quella che una volta si chiamava ginnastica correttiva, che adesso non è più di moda chiamare così, anche soltanto 10-12 minuti 3-4 volte a settimana probabilmente può essere più che sufficiente per consentire alla ragazza di dedicarsi a uno sport che fa con più passione e con più divertimento. Essere e benessere. Buongiorno a Cristina che ci chiama da Padova, benvenuta. Buongiorno, sì, volevo portare la mia esperienza di quest'anno con l'inizio della pratica del Nordic Walking. Sì. Lungo gli argini o i margini dei campi, per chi può appunto stare in campagna come nel caso mio, ed è stata una bellissima esperienza perché si esce anche con il freddo e in compagnia, si scalda insieme, nel senso camminando. Cristina, ci è arrivata per caso, gliel'ha suggerito un amico, come è nato questo amore? È nato leggendo un volantino in panificio e per curiosità mi sono accostata a settembre dell'anno scorso a questa attività, e adesso anche domani mattina aspettiamo un po' di neve per farci un argine ad hoc che sarà suggestissimo, anche con poca neve sugli alberi. Senta Cristina, quanti siete del vostro gruppo? Il nostro gruppo è un gruppo che si aggrega a un altro gruppo di Vicenza, quindi allora un po' più collinare, però noi siamo di Padova e saremo una cinquantina. Sì. Però alla domenica ci troviamo anche di più perché si uniscono i vari gruppi delle varie zone di Bassano, Vicenza città, piuttosto che Monteverico, insomma la zona così, e siamo un bel gruppo e si conosce, si chiacchiera anche perché... Beh, certo. Dottor Colombo, anche qua ritorna l'aspetto aggregativo, socializzante dell'attività sportiva, e mi sembra che Cristina appunto ce lo descriva chiaramente. Sì, sarebbe proprio bello capire che cosa piace all'ascoltatrice Cristina di questa attività, cioè perché ci sarà sicuramente il contatto con la natura, il contatto con la natura, il contatto con il proprio corpo, l'attività fisica, e però anche questa dimensione della relazione. Cristina, lei si sente meglio e si vede meglio? Sì, anche perché poi c'è la postura stessa che tende ad allungare con l'uso dei bastoncini, ad allungarsi verso l'alto, un po' come il collo della tartaruga che esce dalla corazza, e quindi abbiamo sempre questo allungamento che a me giova particolarmente perché mi sento meno ingobbita. Cristina, ecco, dottor Confalonieri, quindi... Cristina veramente l'ha quasi superata. Sì, tra l'altro ha chiarito a tutti che il Nordic Walking è questa pratica di camminare ad andatura veloce avvalendosi dell'utilizzo di bacchette, diciamo così, di racchette simili a quelle che si utilizzano nello sci da fondo. È un fenomeno in grandissima diffusione, un po' su tutto il territorio italiano. Se vi capita di camminare in montagna trovate sempre più persone che lo fanno, ma c'è anche sempre più gente che lo fa in pianura, e anche perché consente sicuramente di camminare più agevolmente sui percorsi più accidentati, per esempio sui colli vicentini cui accennava Cristina, ma consente soprattutto una postura più corretta, come diceva, un utilizzo anche delle braccia, e quindi di rendere più completa l'attività del cammino, che come i nostri ascoltatori sanno è un po' uno dei miei cavalli di battaglia, quello che consiglio un cavallone, direi tantissimo, sì, un cavallone, sì. Un Raffaele dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno Raffaele, di chi si è innamorato quest'anno? Parlo di attività sportiva, eh? Raffaele non parla più. Allora, dottor Confalonieri, ci sono tanti messaggi. Ogni tanto, ad esempio, questo che è già un po' una tirata d'orecchie, ma io ho un'anticipazione. Ogni tanto ricordatevi anche quelli che giocano a rugby, come me, ci dice Lele, ma noi a gennaio avremo qua Sergio Parisse, quindi Lele sarà felice e anche noi, devo dire, in redazione, no, dottor Confalonieri? Sì, poi del rugby, soprattutto anche per i bambini, ne abbiamo parlato abbastanza spesso. Sono 3 mesi che mi alleno in casa con dei pesi per aumentare la massa muscolare, ma ho solo aumentato la tensione muscolare. Potete aiutarmi? Non assumo integratori. Chi fa da sé fa per 3, ma tante volte non si vedono i risultati. Dottor Confalonieri. Diciamo che questo che viene descritto come aumento della tensione muscolare probabilmente è legato a uno scorretto utilizzo dei pesi, quindi a una scorretta esecuzione degli esercizi. Indubbiamente poi è difficile pensare di incrementare la massa muscolare con un lavoro fatto a casa, perché gli allenamenti mirati a un incremento della massa prevedono carichi intorno al 70-80% dei carichi massimali, e sono carichi che si possono fare soltanto in palestra con l'ausilio degli attrezzi guidati e degli istruttori, per cui direi che dovrebbe ritarare l'obiettivo questo nostro ascoltatore. Poi indubbiamente magari l'integratore facendosi aiutare. Esatto, l'integratore può aiutare, ma molto più avanti. E allora invece noi anticipiamo il nostro collegamento con Laura Tonatto, perché vogliamo un po' godercela con tranquillità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Devo dire che ho anticipato volentieri il collegamento, perché posso dirlo, dottor Confalonieri? No, perché poi fuori onda mi dice, ma lei mi dice, perché il dottor Confalonieri è un suo fan, cosa devo dire, sperticato, sì, appassionato. Sì, assolutamente. Sono innamorato delle cose che dice, di come le dice, e non ho perso una puntata questa settimana per ascoltarla. Pensi lei? Ma che carini, grazie. Pensi lei. Grazie. Allora, il professor Colombo naturalmente si lascerà conquistare, e allora noi pendiamo, come si dice, dalle sue labbra. Beh, oggi penso che sia l'ora di parlare di fiori, grandi petali, le rose, e la rosa centifoglia di Grazia in particolare, che è la rosa di esclusiva di Chanel da più di 100 anni, e che viene raccolta a maggio in questi campi meravigliosi che ci sono sulle colline di Grasse. È un'esperienza che invito tutti a fare e che ci lascia questo sentore di fiori anche durante l'inverno, anche durante le vacanze di Natale. E l'altra rosa straordinaria è quella di Taif, ed è la rosa del re dell'Arabia Saudita, raccolta solo per lui. Se ne producono 16 chili all'anno, costa più di 50.000 euro al chilo, ed è un regalo della natura, perché in Arabia Saudita i gradi delle temperature sono superiori ai 50, e quindi è veramente un miracolo della natura, con una tonalità di miele, mielata. Quando si sente la rosa dell'Arabia Saudita si sente proprio questa tonalità. Poi parliamo di gelsomini, e anche qui Grasse noi sa che stiamo sognando. Adesso devo no, in qualche modo fare dei gesti al dottor Confalonieri, perché ha un'aria sognante. Andiamo ai gelsomini, poi le lascio lascio gelsomini di Grasse di nuovo, che sono da abbinare questa volta anche agli agrumi oppure all'ambra, perché l'ambra esalta tutti i petali, e l'ambra è la tonalità delle donne di grande charme, di grande energia, di grande potere, perché iniziò ad utilizzarla, noi sappiamo, Cleopatra, abbinandola proprio alla rosa, in questo caso la rosa egizia. Allora si capiscono tante cose, questa Cleopatra la sapeva lunga, E Cleopatra ha capito veramente che una donna deve comunicare anche con l'olfatto, e dire io sono qui e so di questo, perché conoscere il potere delle fragranze veramente vuol dire essere attenti a tutti gli aspetti che l'esistenza ci offre. Dottor Confalonieri, ecco, a lei il suo mito. Innanzitutto c'è stato... Si è parlato di Grasse, che è uno dei luoghi della mia memoria, quindi a questo punto sono completamente perso. Ho passato alcune delle estati più belle della mia vita, per cui assolutamente figuriamoci. Però... Ecco, una cosa che mi ha incuriosiva ascoltando questa settimana Laura Tonatto era proprio la possibilità di abbinare nel recupero, per esempio, anche di un rapporto di coppia, il profumo con il cibo. Perché io ho sempre creduto molto al fatto di cucinare per propria moglie o per la propria compagna qualcosa che aiuta aiutasse a riscoprirsi, e penso che farlo abbinando anche al gusto l'olfatto e quindi un profumo particolare potrebbe essere una sfida stimolante per il nuovo anno, anche per tutti i nostri ascoltatori. Non so se ho detto un'eresia o se è una sfida suggestiva. Signora Tonatto, se... ma immaginate anche l'odore di questi pandoro, oppure del panettone, dei canditi, delle uvette. Cioè, è vero, è proprio verissimo che abbinare sia i gusti che gli odori, anche in questo periodo di feste, è una cosa molto molto importante. Allora, bravo dottor Confalonieri, vede che ha detto come sempre uno spunto di interessante di riflessione. Signora Tonatto, ma noi ci sentiremo presto, assolutamente prima di Natale, per gli auguri. Grazie per essere stata con noi, buona giornata. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Dottor Confalonieri, noi ci vediamo il 24 perché faremo una puntata un po' particolare e speriamo che ci possa raggiungere anche il professor Colombo. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo. Buona giornata.